Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Elisabetta Maiorano è una cinquantenne che insegna matematica nel carcere minorile di Nisida. Ha un passato piuttosto doloroso, il marito è morto da qualche anno e non era riuscita ad avere figli. Un giorno arriva in carcere una ragazza romena di 16 anni che si fa chiamare Almarina. Anche lei ha un passato piuttosto pesante, era stata violentata dal padre ed era riuscita a scappare in Italia con il fratellino di 6 anni. Una ragazza, Almarina, alla quale possiamo dire che l'affetto è stato proprio negato, e una donna invece, Elisabetta, che forse non prova più e non riceve più amore appunto da quando è rimasta vedova. Fra queste due figure femminili si creerà un rapporto veramente speciale. Questa è a grandi linee la trama del romanzo Almarina di Valeria Parrella, pubblicato da Einaudi. Allora Valeria, partiamo proprio dal personaggio di Elisabetta Maiorano. Lei insegna in carcere da qualche anno e all'inizio del romanzo dice una frase che apparentemente potrebbe stupire. Lei dice: rinchiusa la sbarra alle spalle, mi sento più libera, che è un apparente paradosso. Che persona è Elisabetta Maiorano? Partiamo dal paradosso. Elisabetta, come tu hai detto, ha un passato recente che si svela già nella prima pagina del libro, molto pesante, per cui lei alterna degli interni che sono sostanzialmente di due tipi: casa sua, il luogo dove si rifugia e che però è un luogo pieno di ricordi, ridondante, in cui cammina lo spettro del marito Antonio e non ha ancora superato questo luto, e un altro interno che è quello di Nisida, il luogo dove lei va a lavorare perché lei è un'insegnante di matematica di ruolo nella scuola che è inclusa nel carcere minorile, e dei piccoli sprazzi di esterno. In questi piccoli sprazzi di esterno c'è Napoli. Allora, io ho scelto questi tre luoghi. Questi tre luoghi mi permettevano di raccontare che Elisabetta, per passare da un interno, quello della casa, a un altro interno, quello del carcere, attraversava Napoli. Quindi, in che cosa si concretizza la libertà che tu hai notato io ho messo nel oltre quella sbarra? Nel fatto che lei trova in casa una estrema solitudine che non riesce ancora a gestire, il fantasma del marito ovunque. Attraversa una città complicatissima, che è una città che ti costringe a trattarla come un altro personaggio. Sostanzialmente non si può essere indifferenti a Napoli, o ti arrabbi o ti fa stare bene o ti distrai, ma certamente non è una città qualunque. Infine arriva nel luogo di lavoro. Ora, io credo questo dei luoghi di lavoro: in assoluto credo che il lavoro salvi le persone, le renda libere. Credo che sia molto vero per le donne, e quindi l'idea di mandarla a lavorare per farla sentire libera è ancora gioca, secondo me, proprio perché lei è un personaggio femminile. E infine c'era quella cosa che tu hai notato, e cioè che all'interno della sbarra, ma prima ancora della sbarra che rende inaccessibile Nisida in quanto carcere, lei si sente libera, perché in realtà che cosa succede? Che nella procedura di ingresso, questo in qualunque carcere, tu devi lasciare tutto, ovviamente, perché è vietato portare beni personali in un luogo di reclusione, perché potrebbero esserti sottratti, potrebbero essere usati male. Quindi si lascia tutto, e lasciando tutto lei riesce a lasciare se stessa in qualche modo. E questo fatto di essere nuda dentro, di essere vestita solamente del proprio ricordo, del proprio intelletto e di esattamente dei vestiti che ha addosso, la libera proprio dalla costrizione sociale. Ecco, sicuramente Elisabetta ha incontrato diversi ragazzi detenuti nel corso degli anni, eppure Almarina ha qualcosa che la colpisce più di altri. Poi, andando avanti nel romanzo, una sua collega dirà: ognuno di noi è stato particolarmente colpito da un detenuto e si è sentito particolarmente legato alla sua storia. Che cos'è che Elisabetta vede in Almarina? Elisabetta all'inizio ha un rapporto di oppositivo con Almarina, e in questo si fonda il loro rapporto iniziale, nel senso che non si fidano l'una dell'altra. Questa è stata una fase, delle pagine molto difficili, ti dico, da scrivere, perché ovviamente io sono più portata a scrivere pagine che in qualche modo mi appartengono di più come vissuto politico e personale, cioè sono più portata a scrivere pagine di altruismo. Qui invece io le ho messe di fronte a una doppia resistenza. Se dalla parte di Almarina è una resistenza abbastanza ovvia e scontata, cioè una ragazzina che ha vissuto tutto il male del mondo non si fida più degli adulti, quindi che vuole questa, mi vuole insegnare la matematica a me che ho fatto la rotta dei Balcani, no? Dall'altra parte invece è incomprensibile, cioè Elisabetta dovrebbe da adulta essere una invece pronta a capire, avere una deontologia professionale che l'aiuta ad aprirsi immediatamente agli alunni, e con Almarina non ci riesce, addirittura all'inizio lei la trova brutta. Poi dopo qualche pagina la ritrova fuori dalla classe, quindi fuori dall'ingaggio diretto che l'aveva chiamata a quel rapporto, in mezzo agli altri compagni stanno facendo una partita di pallavolo e guarda una ragazza che assomiglia tanto a quella Almarina, che è molto agile, salta sotto rete, batte, fa punti, i compagni la vogliono, la incitano perché è brava, cioè una donna molto, una ragazza molto generosa, quindi quasi non la riconosce, dice ma quella è l'alunna nuova? Sì, è l'alunna nuova, e già lei e già si trasforma un po' i suoi occhi, cioè già lei è costretta a dirsi che in realtà non esiste una verità oggettiva, il rapporto si crea a metà strada, il rapporto è sempre una decisione di incontro, un passo lo deve fare l'uno, un passo lo deve fare l'altro. Questi sono il libro forse è stato proprio un tentativo di vedere che tipi di passi potessero fare le due protagoniste. Ecco, a proposito anche dei rapporti conflittuali, c'è una parte in cui Elisabetta dice che lei odia sostanzialmente questi giovani detenuti, ma dice che li odia perché dovrebbe saper accogliere e trasformare in virtù ciò che è vizio, e a volte si sente incapace in questo. In un'altra parte dice che prova una certa frustrazione di essere inutile, perché appunto gli studenti cambiano sempre, la classe è sempre diversa. E in un altro punto dice ancora che non si sente in colpa, ma si sente responsabile di quello che alcuni di questi ragazzi hanno commesso e che potrebbero incontrare fuori dal carcere. Ecco, come vive questa conflittualità Elisabetta? Sì, in fondo questo è proprio forse credo che tu abbia trovato qui il tema del libro. Il tema del libro è la difficoltà e il tentativo del superamento della stessa. Ovviamente questa adesso è una macro categoria che io ti ho dato, però sostanzialmente a me interessava proprio raccontare questo, cioè non raccontare un abbraccio tra due persone, ma raccontare una difficoltà, che poi questa difficoltà, se uno ha la bontà e la voglia di leggere il libro fino in fondo, saprà se si scioglie o non si scioglie, ma era proprio questa cosa qui che tu racconti. Allora, che succede? L'ultima frase che hai citato, quella lì della responsabilità, in realtà è una frase che viene fuori da un dialogo che Elisabetta ha con un altro protagonista del romanzo, che è il direttore. Il direttore del carcere è forse un elemento chiave, quasi un deus ex machina nel libro, perché lei a un certo punto chiederà al direttore se può passare Natale in carcere, visto che fuori non ha niente da fare, non ha figli, e chiede questa cosa. Il direttore la sorprenderà dandole una risposta del tutto diversa, diciamo, rispetto a quello che lei potrà fare durante quel Natale. Quindi diventa una figura chiave. Durante questo colloquio con il direttore, anche quello molto aspro, il direttore le dice, la mette alla prova. Le dice, professoressa, lei forse si è innamorata di questa alunna. Allora lei dà fastidio che usi questo termine, no? Dice no, l'ha sedotta, non intendo ovviamente in senso lesbo, intendo in senso di, insomma, da professore a discente. Lei invece rifiuta questa definizione, lei spesso rifiuta definizioni, diciamo, base in un certo senso dei rapporti, perché Elisabetta crede per un suo vissuto che l'amore sia molto più complesso di come possa essere raccontato in tutte le sue forme. E a un certo punto il direttore le dice, io lo so che lei si sente in colpa, lei dice no, io non mi sento assolutamente in colpa, no, lei si sente in colpa, o perlomeno si sente responsabile, perché dove c'è un minore colpevole, da qualche altra parte ci deve essere per forza un adulto colpevole. E questo è un po' il senso poi politico del libro, nel senso che veramente esiste il carcere minore Lelinisida. Pensa che quando io, questo libro è uscito ad aprile dell'anno scorso, quando io ho cominciato a fare le presentazioni, ho incontrato persone che non sapevano che in Italia esistessero carceri minorili, pensavano che ci fossero istituti di rieducazione, case famiglia, ma non sapevano dell'istituzione del carcere minorile. Quindi È chiaro che è come se questo carcere minorile fosse sentito come un residuato di un sistema ottocentesco. E invece quando ci sono entrata, perché poi il libro nasce anche da un'esperienza di scrittura creativa che io ho condotto in un laboratorio proprio al carcere minorile di Nisida, lì mi sono resa conto che è un'aberrazione, che il carcere è fatto benissimo, che sicuramente Nisida può offrire tantissime possibilità ai giovanissimi detenuti che ci sono, ma che il problema è quello lì, è del quando usciranno. Quando usciranno, che cosa c'è? C'è la società da cui vengono, c'è la stessa società che li ha portati a delinquere. Siccome questi ragazzi sono giovanissimi, Almarina ha 16 anni ed è sicuramente una figura di invenzione, ma è molto verosimile. Da qualche parte nel mondo c'è una società composta di adulti stavolta, quindi anche composta da noi, che li ha portati a delinquere, che gli ha fatto mancare quell'affetto, quella considerazione, quella cura che si dovrebbe sempre dedicare alle generazioni che vengono dopo di noi, ma anche a quelle che vengono prima, ovviamente. In realtà è come se noi adulti, cioè noi in questa fascia di età che va dai 25, che ne so, ai 75 anni, ci dovessimo far carico di tutti i ragazzi e di tutti gli anziani del nostro paese. E questo è il senso di responsabilità che Elisabetta vorrebbe mettere in campo, per il quale non è facilissimo sempre, nel quale non è facilissimo sempre agire, perché noi siamo esseri umani e Elisabetta è una persona iperumana e sa quali sono i suoi limiti. A volte la vita ce la aggiustiamo come ci pare, ci distraiamo, è giusto che sia così, è bello che sia così, sono ancori di salvezza. Quando poi invece ci troviamo, ci dobbiamo mettere nudi, no? Scevri da tutte le sovrastrutture, davvero davanti a un altro essere umano, che cosa gioca in noi? Allora, se non ci si riesce, si può giocare la frustrazione, se non ci si riesce, può giocare l'angoscia. L'angoscia si può trasformare addirittura in risentimento. In fondo, per qualunque professore è più facile trovarsi davanti un ragazzo ben disposto, felice, che ha una famiglia solida alle spalle e che magari ha anche studiato il giorno prima. Molto più complicato è trovarsi davanti a un ragazzo positivo, che ti tira in ballo rispetto a questioni che non c'entrano con la matematica o con le scienze, ma c'entrano col fatto che vuole da te delle risposte. Siamo in grado di dare quelle risposte? Elisabetta è in grado di fornire queste risposte? Questo è il suo grande conflitto. A proposito del senso politico anche del romanzo, a un certo punto Elisabetta si trova ad affrontare, diciamo, una sorta di scontro fra quella che è la legge, quindi lo Stato, e invece un senso personale di giustizia. A proposito del fatto, per esempio, che Almarina non può fare ricerche per sapere in quale casa famiglia o a quale famiglia sia stato affidato il suo fratellino, insomma. Quindi c'è anche questo elemento che gioca in lei, questo scontro, questo conflitto. Sì, questo è un conflitto in realtà, diciamo in qualche modo, che io evoco spessissimo nei miei libri, lo chiamo burocrazia, lo chiamo istituzione, sottolineo spesso l'inadeguatezza del sistema Stato, nonostante l'Italia sia una buonissima democrazia, però c'è una distanza enorme che a volte in certi periodi storici anche si aumenta tra il cittadino e lo Stato. Questa cosa che io sottolineo spesso nei miei libri perché la sento è un vulnus della nostra democrazia. Bene, questo conflitto è un conflitto che nella letteratura esiste da sempre, che secondo me è stato raccontato benissimo nell'Antigone di Sofocle. Cioè, il conflitto originario tra individuo, tra Stato e cittadino, quindi tra individuo e istituzione che dovrebbe rappresentarlo e che invece diventa un ostacolo in qualche modo. Questa è proprio un'antinomia. In qualche modo è un conflitto che io credo sia insolubile. E in questo c'è anche poi la bellezza del senso politico di tutta la letteratura che ricorda il conflitto antigoneo, nel senso che i romanzi non danno soluzioni, i romanzi danno chiavi di interpretazione. Uno li butta via, li butta giù, li butta sulla pagina in modo che qualcun altro li possa raccogliere e si possa fare un'idea un po' più ampia di quella che aveva prima. Nessuno pretende di sapere dove sta la verità. Grazie a Valeria Parrella, ora in libreria con Almarina, pubblicato da Einaudi. Vi ricordo che questo è uno dei romanzi candidati al Premio Strega. Grazie Valeria. Grazie, ciao. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. She used to work in a diner. Never saw a woman look finer. I used to order just to watch her float across the floor. Il nome della madre è il nuovo romanzo di Roberto Camurri, pubblicato da NN Editore. Avevamo conosciuto Camurri con l'opera prima Misura d'uomo. Se però il primo romanzo era quasi un po', come dire, caleidoscopico, perché c'erano una serie di personaggi, era quasi un intreccio di racconti, il nome della madre è un romanzo che si concentra sostanzialmente su due personaggi, Ettore e il figlio Pietro, e poi su una grande assente, che è la madre di Pietro, moglie appunto di Ettore. Questa è una storia veramente determinata da questa assenza, è una storia in cui l'assenza è quasi paradossalmente veramente ingombrante. Allora, il romanzo segue la vita di Pietro sostanzialmente da quando nasce a quando poi diventa adulto e a sua volta padre. All'inizio però vediamo Ettore, padre di Pietro, che viene inspiegabilmente abbandonato dalla moglie e deve crescere da solo un figlio che non ha neanche compiuto un anno. All'inizio dunque noi vediamo e sentiamo proprio attraverso le pagine di Camurri il dolore quasi tangibile che Ettore prova per questo abbandono che non riesce a spiegarsi. Allora Roberto, partiamo dal personaggio di Ettore. Come vive questo abbandono? Detto che lui sembra, cioè che il lettore sembra quasi sentire la sua sofferenza. Allora, Ettore all'inizio si trova un po' catapultato, no? In questa situazione, e all'inizio soprattutto reagisce quasi con rabbia e non riesce a spiegarsi i motivi per cui si trova abbandonato appunto da questa donna, no? Però, come appunto dicevi tu, è un qualcosa che in qualche modo decide di essere, di mettere a tacere. E la figura della madre di Pietro non viene più nominata neanche a suo figlio, perché forse nominarla è come se rendesse ancora più pesante e ingestibile il peso di un qualcosa che Ettore vive come un lutto. E poi mi piaceva anche vedere come il tempo, in qualche modo, se decidi di rimboccarti le maniche, che è un po' quello che volevo spiegare anche a Misura d'uomo, ricuce le ferite. Poi Ettore è un uomo che sente molto il peso della responsabilità nei confronti di Pietro e nei confronti dello stare lì, e anche questo è un po' una differenza rispetto a quello che raccontavo in A Misura d'uomo, in cui le figure che sceglievano di rimanere nonostante tutto erano più quelle femminili. Qui la partenza e la premessa è proprio l'opposto, no? E mi piaceva andare a raccontare l'altra faccia di una stessa medaglia. Ecco, tu hai detto giustamente che Ettore non nomina mai sostanzialmente sua moglie. Infatti Pietro cresce senza sentire nominare sua madre. Sostanzialmente nessuno ne parla mai, non ne parla suo padre, non ne parlano i suoi nonni materni, i suoi nonni paterni invece non ci sono più. Questo è un romanzo fatto anche molto di silenzi, non solo perché non si parla della madre, ma perché anche i personaggi fra loro parlano veramente pochissimo, il padre con il figlio e con gli altri personaggi. Un romanzo, dicevamo, fatto di silenzi, i personaggi parlano soprattutto attraverso i gesti. Quanto pesa questo silenzio sulla vita e soprattutto sulla crescita di Pietro? Ecco, i silenzi, io ci tengo a sottolineare che in questo libro ci sono più dialoghi che nella Misura d'uomo, perché è un qualcosa che rivendico con orgoglio. Dato giustamente, che poi... giustamente tu lo rivendichi, però effettivamente il silenzio è, come dire, se fosse il terzo protagonista. E infatti stavo per dire che l'ultimo romanzo probabilmente, siccome ne aggiungerò sempre di più, perché è un po'... è una forma di scrittura che un po' mi spaventa, il dialogo, ecco. E quindi all'ultimo romanzo farò solo un romanzo di solo dialoghi, e quindi poi non scriverò mai più niente quando riuscirò a scrivere un romanzo solo di dialoghi. Così per compensare, insomma, per compensare i due primi romanzi. Esatto, però è un qualcosa che ancora in qualche modo mi rendo conto che non sono riuscito a finire di spiegare a me stesso, no? questa, la questione dei silenzi, perché la difficoltà che si ha nell'esprimere le proprie emozioni, anche a nominarle, no? Perché a volte magari ti capita di trovarti incastrato in qualcosa che non ti aspetti, come poteva essere i primi amori, le prime amicizie in A misura d'uomo, e qui appunto la responsabilità di essere padre e la responsabilità anche di essere figlio e volersi smarcare dalla generazione precedente come è Pietro, no? E cercare una propria identità. E farlo in un contesto in cui nessuno riesce a dare un nome a quello che prova. Era quello che mi interessava. È proprio una difficoltà nello spiegare quello che si prova, no? E sono tutti personaggi concentrati nel gestire l'assenza di questa donna, no? Di questa madre. E forse non riescono a gestirla bene e non riescono a spiegarsela loro, no? E quindi non riescono a portarla fuori. L'emozione è un qualcosa che fa paura ed è un qualcosa che Pietro cerca di trovare e capire nell'unico modo che ha, che cioè quello di fare dei gran casini fondamentalmente. E perché è confuso, è frustrato e in qualche modo è anche frenato nel chiedere le cose, perché nessuno dice niente e tutti tengono dei segreti. Effettivamente anche nel tuo primo romanzo c'era sempre questa difficoltà da parte dei personaggi di esprimere le emozioni, quindi mi sembra di capire che sia un po' un tuo marchio di fabbrica, mettiamola così. In questo romanzo c'è anche forse la difficoltà a comprendere, non solo ad esprimere le emozioni, ma anche a comprenderle, perché insomma Pietro è abbastanza, direi così, quasi sballottolato dal fatto che sia stato abbandonato dalla madre, che nessuno ne parli e che quindi c'è quasi come questo elefante presente in una stanza, ma nessuno dice c'è l'elefante. Esatto, infatti poi Pietro alla fine se ne costruisce anche uno, no? E sua madre inizia ad avere dei connotati quasi sovrannaturali, no? E lui la vede, ha in qualche modo delle visioni, oppure la riconosce quando è incomprensibile che la riconosca, perché appunto cerca, è sballottato da tutto quello che ha di fianco e dalle persone che in qualche modo sono nella sua vita e sì, cerca proprio il suo modo di stare a galla, no? E di trovare il proprio posto, perché sente di non averlo. E poi dall'altra parte è confuso, perché fino a un certo punto lui si rende conto che forse l'unica scelta che ha è essere come suo padre o essere come sua madre, e questa cosa lo manda in confusione ancora di più e cerca la possibilità di essere un qualcosa di diverso da suo padre e da sua madre. E questo si vedrà per esempio nel rapporto che lui avrà con le donne della sua vita, sostanzialmente con Gaia e con Miriam, che sono insomma le due donne importanti, anche due donne molto diverse. Però tornando proprio all'infanzia di Pietro, c'è una scena molto, molto struggente, molto commovente, quasi all'inizio del romanzo, quindi la posso raccontare, nel momento in cui il padre accompagna Pietro a prendere un cucciolo di cane, e il cucciolo di cane si allontana dalla mamma cane, e la mamma cane abbaia, il cucciolo piange, eccetera, e lui si domanda, anche se è un bambino di 7-8 anni, si domanda, dice, chissà se questo cucciolo proverà per sempre questo dolore di distacco dalla madre. Quindi si capisce che per lui questo dolore è, come dire, è proprio un dolore fondante nella sua vita. Sì, il romanzo inizia in un e poi nella generazione dei miei genitori, quando ad esempio i miei sono diventati genitori, quindi l'inizio degli anni più o meno 80, no? In cui se sei senza mamma in qualche modo lo percepisci. Poi i bambini, io vedo con mia figlia, anche se certe cose non vengono dette, loro le capiscono e hanno delle antenne, no? E quindi fondamentalmente non mi sono posto il problema di Pietro se davvero sente questa cosa e se la comprende, no? Perché comunque è un tessuto sociale e anche poi fabbrica è piccolina, e quindi lui sente che gli manca qualcosa, no? E sente che gli manca sua madre. Ad esempio in quella scena Ettore non capisce il parallelismo fra i cani e Pietro, no? E invece Pietro sì, perché Pietro appunto, essendo un bambino, è più, come posso dire, si sente più permeabile a ciò che l'ambiente lo circonda, no? È puro, non ha sovrastrutture, non ha difese, e sente che c'è un qualcosa che gli manca, no? Un pezzo che gli manca. e poi sarà una mancanza che lo accompagnerà poi per tutta la vita questa. Come normale che sia, insomma, essere abbandonati dalla madre ovviamente è una cosa che ti segna vita. Io trovo che questo sia un romanzo in crescendo, cioè hai usato una narrazione veramente incalzante, il lettore percepisce come una tensione. Mi ha fatto pensare a quella famosa frase di John Lennon, sai, che diceva che la vita è quella cosa che ti accade mentre tu stai progettando altro. Ecco, io ho avuto la percezione che la vita è quella cosa che accade a Pietro mentre lui, come dire, sta aspettando qualcosa, forse sta aspettando uno svelamento che non diciamo naturalmente se ci sarà o non ci sarà. È un po' così che l'hai voluto costruire questo romanzo? Sì, perché è un qualcosa che mi affascina nella vita reale, no? Il fatto che magari ci sono dei momenti in cui pensiamo che sta per succedere qualcosa di epocale e poi alla fine, quando arriva quel momento, si sgonfia tutte le aspettative che avevamo creato su quel momento lì, no? Eppure siamo persone diverse, perché comunque quell'attesa e quel momento ci svela per chi siamo, no? E mi piaceva raccontare, poi non è esattamente, cioè, come posso dire, non è una saga familiare questo libro, no? E racconta particolari momenti che succedono nella vita dei protagonisti, no? Ed è quel momento, quei momenti in cui all'inizio del capitolo Pietro è un qualcosa e alla fine diventa qualcos'altro, no? E mi piace andare a portare alla luce quel momento che segna una frattura fra chi eri prima e chi eri dopo. E quindi ho pensato di farla un po' così e poi soprattutto creare questo clima di tensione mi piace, perché poi sarà anche le mie letture, che leggo Stephen King, i gialli, quelle cose lì, e quindi secondo me è un retaggio di quella narrazione, che però secondo me si sposa bene anche alla quotidianità e alla routine che vado a raccontare, no? Perché mi permette di spostarla un attimo dall'asse in cui normalmente è incanalata, no? Grazie Roberto Camurri, ora in libreria con Il nome della madre, pubblicato da NN Editore. Un romanzo che vi consiglio vivamente, perché è un romanzo veramente che tocca delle corde profonde, secondo me, di ognuno di noi. Grazie Roberto. Grazie mille, grazie a te, grazie a tutti. E anche per oggi è tutto, grazie al settore tecnico che ha supportato il montaggio di questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che se volete potete seguirci sui social, in particolar modo su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.